24 mattino. E 19 minuti, buon 8 dicembre ancora da Anna Migliorati. 8 dicembre, ieri il 7 dicembre, prima della scala, un rito o cosa? Ecco com'è andata. Noi è una città con un grandissimo talento, con una grandissima sensibilità, e forse questo talento va insieme con un po' troppo di nervosità. Il talento italiano è la più grande cosa per gli italiani, ma anche è il più grande rischio che l'italiano ha nella sua vita. Noi vogliamo entrare dalla porta principale e dire a queste persone quello che pensiamo, che la loro austerity, le loro politiche di questa città, di questa Europa, di questa Italia fanno schifo. Penso bene, la scenografia si è fatta protagonista, ha tenuto campo tutto il periodo, tutto il tempo. Normalmente il Fidelio nel primo atto è un altro tipo di opera, però diciamo che fin dal primo momento entriamo nell'atto finale. Ci sono stati anche degli scontri molto forti. Ma gli anni sono difficili per tutti oggi. Spaccare le teste, questa è la democrazia del governo Renzi, e per questo oggi noi siamo venuti qua a dire che se ne devono andare a casa tutti, una casta di politici, mafiosi, imprenditori, fascisti, tutti quanti insieme, che se ne devono andare a casa. Un po' il rito della prima al teatro, alla Scala, fuori gli scontri, per la verità, come non si vedevano da qualche anno, duri ieri, durissimi, e dentro il Fidelio che ha siglato l'addio di Barenboim al teatro milanese. Come è andata? Cosa c'è da salvare di questi riti? Cosa c'è da salvare del teatro dell'opera italiana? Avrete riconosciuto il soprintendente Pereira, l'architetto Mario Botta, il presidente della Biennale Paolo Baratta, nelle interviste della nostra Marta Cagnola. Grazie anche al nostro Stefano Totoro, che ieri era fuori dal Teatro alla Scala in questa sorta di copertina curata da Lorenzo Nespoli. 800 24 00 24, se di tutto questo volete parlare con noi questa mattina. Intanto io saluto i nostri ospiti: Franco Scaglia, scrittore, giornalista, autore teatrale, ex presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Teatro di Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, signora Migliorati. E Pietro Valenti, direttore ERT, Teatro Stabile Pubblico dell'Emilia Romagna. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Per parlare anche di quello che invece funziona nei teatri italiani. Ma cominciamo da ieri, da quello che funziona o non funziona. Innanzitutto, Scaglia, com'è stata questa prima, questo Fidelio, in chiave almeno di allestimento moderno? Ma io ho visto un po' di cose in televisione, chiaramente, da Roma. Ho visto una signora, una frequentatrice della Scala, una signora molto elegante, biondissima, che si lamentava dei costumi perché in jeans non si può fare la grande opera. Questo, secondo me, è un'interpretazione un po' antica, perché poi oggi le regie, e Valenti lo sa perché è quello che ha portato i più grandi registi d'Europa in Italia, cioè le regie sono invenzioni e devono anche in qualche modo interpretare l'epoca in cui si vive, quindi quello mi pare. C'è da dire che l'impressione, insomma, vedere la piazza fuori, questo allestimento del Fidelio dentro ieri, insomma, il suo effetto, almeno mediaticamente, sicuramente l'ha fatto. O è solo una... No, ha ragione lei, l'effetto l'ha fatto, però vedi, io faccio una considerazione più generale. Forse io sto a Roma e sono in una situazione dal punto di vista teatrale, diciamo, molto complessa ed è un eufemismo. Sono i nostri grandi riti. Un grande rito, io capisco che chi ha fame, chi ha bisogno di lavoro, e ormai sono sempre di più, e vede gioielli, begli abiti e tutti quelli che magari si arrabbia. Che potrebbero fare di più, uno si arrabbia. Si arrabbia. Allora, parliamo anche di riti, e così ho esordito proprio poco fa, quanto tutto questo è un rito e quanto invece ha ancora un suo fondamento e una sua ragion d'essere, perché ad avere problemi di soldi non è solo chi sta fuori da quel teatro ieri sera, ma anche chi stava dentro nei teatri italiani, e a maggior ragione dopo la vicenda che abbiamo seguito tutti dell'Opera di Roma, i teatri dell'Opera. Soldi pochi, costi alti, così insomma in qualche modo tra noi abbiamo voluto riassumere la situazione dei teatri italiani. Si parla di debiti che si aggirano sui 328 milioni di euro. L'opera italiana da sempre un fiore all'occhiello del bel paese, come diceva Pereira, però un pericolo per gli italiani. Valenti, è così, sono riti, hanno una ragion d'essere, sono sostenibili dal punto di vista economico? Io credo che la qualità del lavoro sia molto alta e sia una qualità che va difesa. Difendere la qualità vuol dire non vuol dire oggi fare dei debiti, cioè io credo che ognuno dovrebbe, davanti alla situazione in cui si trova, nella gestione della sua struttura o della struttura di cui è provvisoriamente a capo, deve valutare molto bene quali sono le regie economiche, quali sono le disponibilità e impostare prodotti di qualità sulla base di questa realtà. Credo che tutto il mondo del teatro stia facendo in questo momento un grande sacrificio, i cachet sono diminuiti moltissimo, i teatri pagano con tempi lunghi, la situazione noi che lavoriamo tutti i giorni in questo settore la conosciamo molto bene. Allora noi dalla redazione siamo andati a ripescare un articolo del 23 settembre sulla Repubblica, un'intervista ad un orchestrale firmato da Anna Bandettini, in cui si facevano anche un po' questi conti, bagni che non ci sono, situazioni difficili anche dal punto di vista lavorativo. In questo paese si vuole declassare la cultura, lo facciamo per salvare la musica, ma qual è il suo stipendio? Chiedeva tra l'altro 2200 euro al mese più gli straordinari se li faccio, le prove vanno dalle 4 alle 6 ore al giorno, c'è lo spettacolo, si parte dalle 5-6 del pomeriggio a notte fonda, le ore di studio a casa, ripeto, anche dentro i teatri la crisi, o ci sono dei vecchi corporativismi anche qui? Dove sta Scaglia? Ma dividiamo tra teatro d'opera e teatro di prosa. Le do una piccolissima risposta al teatro di prosa, e credo che Valenti si riferisse anche a questo. È un teatro che ha grande forza in Italia, ormai è ridotto al lumicino perché i costi sono sempre più bassi, gli artisti sono pagati sempre di meno, è difficile avere i finanziamenti dagli enti locali, insomma il teatro di prosa è in estrema difficoltà, mentre ha una buona qualità. Per quello che riguarda gli enti lirici, il discorso è un po' diverso, perché il teatro di prosa ha pochissimi dipendenti. Io al Teatro di Roma avevo 40 dipendenti fissi, al Teatro dell'Opera credo che siano più di 500-600, ma perché ci sono quelle che si chiamavano le masse un tempo, no? Cioè il coro, l'orchestra, il corpo di ballo, una struttura burocratica grossa ma necessaria, tutti quelli macchinisti eccetera. Ora è chiaro che mentre all'estero, so in America, io sono stato varie volte al Metropolitan, e ci sono fondi che arrivano da fuori, dai cosiddetti sponsor in Italia. Questo in Italia questo non succede. Al 349-238-6666 un ascoltatore intanto ci scrive. Sì, queste prime alla fine però sono non un rito ma una liturgia di casta. Parliamo anche dei prezzi degli ingressi, di costi più o meno accessibili. Allora, sono le 8:30 in questo istante, abbiamo una pausa, ma parliamo anche di costi tra poco. 24 mattino. Scala è una saluta eccellenza, tutto il mondo guarda quello che avviene qua, l'attenzione della prima è motivata dalla grande qualità, dalla credibilità del passato e del presente, e mi dispiace che le manifestazioni fuori rischiano di creare un danno all'immagine del paese. Centinaia di migliaia di persone stanno decidendo se venire a Milano o meno durante l'Expo, se venire agli appuntamenti della Scala in quei mesi. Tutto questo rischia di creare un danno d'immagine e anche un danno economico. Teatro La Scala dentro e fuori nel rito del 7 dicembre. L'opera Europa da Faraoni in una terra da barboni, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Franco Scaglia. D'altra parte La Scala è sempre stata un po' questa doppia faccia, lo è stato insomma anche storicamente. Forse una volta le proteste e le ribellioni erano più dentro che fuori, ma tant'è, sono un po' le due anime della prima della Scala. C'era il ministro Franceschini, ieri l'abbiamo sentito, non c'era il presidente della Repubblica e non c'era il presidente del Consiglio. Che effetto fa non vederli alla prima della Scala dopo tanto tempo? È un disinteresse della politica o solo disattenzione? Ma senta, credo che avessero altri problemi, non lo so, sono problemi loro. Cioè, l'importante è che vada in scena una grande opera ben diretta, con una bella regia e che funzioni. C'era il ministro della cultura, cioè, non io queste cose di presenzialismo le ho sempre guardate con grande freddezza. Vabbè, non c'è il presidente della Repubblica, si vede che aveva altri impegni, cioè non o forse era stanco, ma che ne so, cioè non è un tema forte. Non è questo la questione. No. C'era Franceschini che però di teatri e di teatri dell'opera, e come no, se ne sta occupando a partire dal decreto di luglio e dai fondi, perché lui sì, le note dolenti le ha davvero sul tavolo. Ma sa, Franceschini è finalmente un ministro che di cultura si interessa, è uno anche che scrive libri e assolutamente alcuni anche molto buoni, io ne ho letti un paio di romanzi suoi, quindi cioè, è uno interno, mettiamola così, al mondo culturale e che capisce. Certo, fa i conti con una situazione, è capitato nel momento peggiore, con una situazione economica estremamente difficile, ma per tornare un secondo sul tema dei costi, è chiaro, tra un teatro di prosa, usando questo tema, un teatro lirico, i costi sono assolutamente diversi, gli stessi artisti, cioè un attore di prima fascia, e Valenti lo sa perché io non ero un operativo, ero un operativo, ma insomma qualche cosa la sapevo anch'io, insomma le cifre di serata, di ingaggio sono talmente diverse che poi alla fine chi ci rimette moltissimo è l'attore di prosa, perché il cantante lirico allo stesso livello di un buon attore guadagna 5-6 volte di più, forse bisognerebbe calmierare i prezzi, ecco, in questo senso certi costi della lirica si potrebbero rianalizzare. A Roma hanno risolto il problema diciamo facendo con lo scontro duro, certo, con sì, lo ma scontro poi alla duro fine hanno accettato, perché c'erano obiettivamente delle situazioni un po' eccessive da quello che ho letto e da quello che so, dico di straordinari, di indennità. Quindi questo è un tema che si può Valenti, affrontare. Chi li paga questi costi? Perché per molto tempo i grandi sovvenzionatori alla fine sono stati regioni e comuni, quando non lo Stato. In questo momento i soldi non ci sono. Come si fa ad avere un teatro virtuoso da direttore di un teatro, del Teatro Stabile Pubblico dell'Emilia Romagna? Ma come dicevo prima, bisogna guardare bene la situazione in cui ci si trova, guardare il proprio territorio, pensare al proprio pubblico, cioè deve costruire percorsi non virtuosi, percorsi che permettono di spostare anche impegni economici sull'attività che stai svolgendo. Cioè io credo che l'investimento che il nostro paese fa sulla musica è completamente fuori da qualsiasi logica della situazione economica. Perché troppo poco o perché troppo? È troppo, secondo lei? È sbilanciato rispetto a un mondo che potrebbe costare molto meno. Cioè, non è detto che il teatro, il grande teatro, sia allora chiediamo anche ai nostri ascoltatori, siete d'accordo? 349-238-6666, costa troppo? Potrebbe costare meno, lei dice, Valenti? Ma non solo potrebbe costare meno, ma credo che uno dei problemi più grossi che noi abbiamo è quello politico. Cioè, è chiaro che un ente lirico, qualsiasi ente lirico italiano, ha come presidente il sindaco della città. Cioè, perciò il sindaco non può non avere a cuore l'attività del teatro lirico della propria città. Anche nella nostra regione, l'Emilia Romagna, il teatro lirico ha una forza enorme. E il problema è una grande tradizione. È una grande tradizione, assolutamente, da difendere, da sviluppare. Il problema è gestire i costi, cambiare gli accordi sindacali, cambiare gli accordi con gli scritturati. Guardi, io faccio questo lavoro da un po' di anni, ma penso che nel momento in cui la disponibilità economica per fare certe operazioni non c'era più, ho rinunciato ai primi attori italiani tra i più importanti, non lavorano più. Ma a forza di rinunciare, non si perde poi nella qualità? Ma la qualità è garantita da altre cose, cioè la qualità è garantita da quello che tu metti nel lavoro che fai, cioè la qualità è garantita dalle collaborazioni importanti con giovani registi e anche con meno giovani, cioè la qualità è garantita. Noi abbiamo una compagnia che è fatta di che si chiama Arte Salute. Parlando di teatro d'opera, ma faccio io diciamo il contraltare, ma si è sempre detto, Scaglia, che l'anima è l'orchestra, non si tocca perché l'anima sta lì, però Valenti ci sta dicendo tutt'altro. No, non mi pare che Valenti stia dicendo tutt'altro. Valenti dice forse che un'anima diversa. No, che bisogna ridurre i costi, nostro discorso. Cioè, l'operazione che è stata fatta a Roma con violenza è stata anche sistemare certe indennità che l'orchestra aveva, che non erano particolarmente giuste. Ma le dico, d'altra parte facevo 328 milioni di euro di debiti, insomma, è un peso anche quello. Senta, le voglio dire una cosa. Anni fa un sovrintendente importante, io ero appena tornato dall'America, da Metropolita, e gli dissi: ma perché non gli allestimenti, fa conto del tuo teatro, non vanno in un altro teatro, insomma non si trova un sistema di ammortizzare i costi, di farli assieme? E lui mi disse: no, non è possibile. Io dissi: ma perché non è possibile? No, perché spostare le scene costa un sacco di soldi. Cioè, non fu una risposta secondo me convincente, però dei sistemi credo che Valenti si riferisca anche a questo. La riduzione dei costi si fa costruendola, non è che la fai programmandola in maniera diversa, pensandola in maniera diversa. Si possono dimezzare i costi. Si possono dimezzare i costi. Adeguarsi. E allora, resta così, insomma, il grande rito forse i costi non possiamo più permettercele. Chi lo sa se l'anno prossimo vedremo un'altra prima della Scala così, o anche dopo la vicenda del teatro dell'Opera di Roma, anche la lirica italiana in qualche modo una pagina l'ha voltata. Nel frattempo, ieri, dicevamo, è andata così, crisi fuori, crisi dentro, scontri fuori, scontri dentro, in fin dei conti, al teatro alla Scala. Grazie allora ai nostri ospiti, Franco Scaglia, scrittore, giornalista, autore teatrale, ex presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatro di Roma. Buona giornata. Grazie. E Pietro Valenti, Teatro Stabile Pubblico dell'Emilia Romagna, buona giornata anche a lei. Noi però non ci fermiamo qui, perché c'è altro di cui parlare. Cercheremo di capire se crisi è o non è anche nel Movimento 5 Stelle. Tra poco. Maramucci deputato, Movimento 5 Stelle di Imola. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Ieri era a Parma, giusto? Sì, nel pomeriggio sì, sono passata. È passata, non è una conta, ha detto Pizzarotti, ma insomma, quanti eravate col sindaco di Parma? Non pochi? Beh, avevano una stanza, avevano preso una sala di 300, circa 350 posti, quindi quelli erano. Quelli erano? Qualcuno dice che qualcun altro avrebbe voluto esserci, ma non ne ha avuto il coraggio? No, sicuramente non ha avuto spazio, perché loro sono partiti con le adesioni e l'ultima settimana hanno dovuto dire no a parecchie persone, anche a dei pullman che venivano dal meridione, perché comunque la stanza la teneva. Il famoso pullman che è rimasto bloccato in Calabria. Esatto, però per vincoli di spazio, diciamo. Poi chi ha fatto altre scelte perché non se la sentiva, quelle sono ragioni personali, ecco. Le piace la definizione Leopolda di Pizzarotti? No, perché è un chiaro riferimento alla Leopolda di Renzi, e questa non c'entrava veramente niente, perché se iniziamo tutte le volte a creare dei legami fantomatici, poi è qui che nascono tutti i complotti e i complottismi vari, per cui secondo me non sarebbero neanche non sono da associare le due cose. È stato un momento in cui si è provato a fare un po' di aggregazione e secondo me ha funzionato, perché comunque si sono ritrovati tanti sindaci, tanti amministratori comunali, e molte idee sono venute fuori, ma soprattutto è venuto fuori che i problemi sono gli stessi per tutti, e quando tu riesci a capire che i problemi sono gli stessi per tutti, anche le soluzioni possono essere condivise, quindi facendo rete sicuramente. E quali sono i problemi? Ad esempio, genericamente, problemi di vincoli di bilancio, devi fare delle scelte, i cittadini vedono la cosa che simpatica è che... Parlavamo anche prima per i teatri dell'opera, alla fine il problema dei soldi salta sempre fuori. Esatto, no, ma una cosa che mi è rimasta impressa è che il sindaco di Pomezia ha detto che praticamente secondo lui quello che ha tastato del sentore dei cittadini è che il problema più grosso sono le buche, però non possono asfaltare tutto il manto stradale, altrimenti servirebbero una cosa come 20 milioni di euro, che nel bilancio del loro comune è equivale al gettito dell'IMU. Si riparte dalle buche. Il Movimento 5 Stelle riparte dalle buche stradali? No, per far capire che i problemi dei sindaci sono tutti gli stessi e che quindi anche le soluzioni possono essere condivisi. Non è il problema delle buche in sé, è il problema che magari il cittadino vede le cose piccole davanti a sé e non capisce i problemi veri, problemi macroscopici di gestione di un comune. Senta, la parola Leopolda mi ha già detto che non le piace, però c'è chi l'ha evocata in questi giorni, e con Leopolda va appaiata la rottamazione. C'è già da rottamare nel Movimento 5 Stelle? Nel Movimento 5 Stelle c'è da costruire. Io credo ci sia bisogno tanto di questo, e c'è bisogno di riunire le persone e tranquillizzarle anche un po', perché comunque il clima deve essere un clima sereno, un clima inclusivo, un clima in cui si dibatte di idee, di programmi, e non si fa la guerra tra di noi, perché il nemico è fuori. Questo è emerso da ieri. Il nemico è fuori e non è dentro. Grillo ha detto non faccio passi indietro, dovrebbe? Ma non so quando ha detto non faccio passi indietro, però il passo indietro che ha fatto è evidente con il direttorio dei 5 deputati scelti, insomma, nel senso che lo ha detto lui, è un po' stanchino e ha bisogno di qualcuno che definito lo segua più da vicino. Credo che questo sia umano, anche perché negli ultimi anni gli consiglia un po' di riposo? Ma io consiglio a tutti di stare attenti al proprio carico e stress fisico, ma non mi sembra sia questo il tema, insomma. Ne ha troppo, Grillo? Forse un po' di riposo gli farebbe bene? Ma guardi, deve chiederla lei, veramente. Secondo me è meglio se parliamo di quello che è accaduto ieri. Allora, parliamo di quello che è accaduto ieri. Pizzarotti, secondo lei, studia un po' da leader? Secondo me Pizzarotti fa il sindaco, esattamente ciò che deve fare, quindi cerca di ascoltare il più possibile i cittadini. Io lo vedo che spesso su Facebook posta notizie in cui comunque è andato nei vari comitati, ha ascoltato le persone, cerca di toccare con mano i problemi dei cittadini, e poi cerca di far guardare un bilancio che, non ricordiamolo, parte in grosso deficit, e quindi grazie a loro già è calato. Senta, però ne abbiamo già visto un altro di sindaco che faceva il sindaco e ora non fa più il sindaco. Secondo lei le ambizioni di Pizzarotti si fermano a questo, alle buche? Sì, Pizzolatti vuole assolutamente fare il sindaco al meglio di quello che gli è concesso, quindi penso non abbia altri obiettivi personalmente, però veramente lo chieda a lui, ma dubito che una persona che è da 2 anni che gestisce un comune abbia così immediatamente altre ambizioni, quindi mi sembra veramente improbabile. Un po' troppo. Una sua collega ieri ha detto che forse potrebbe non essere un tabù togliere il nome di Grillo dal simbolo, che ne pensa? Ma da quello che dopo ho visto è stata frainteso, comunque non intendeva dire questo. Intendeva dire appunto che Beppe, comunque sentendosi magari troppo carico di responsabilità e comunque affaticato, ha deciso di dichiarare questo direttorio che lo assiste, che lo segue più vicino, quindi non penso intendesse questo. Quindi ieri il direttorio non c'era però con voi. Sono nate un po' 2 anime dei 5 Stelle o no? Io non credo che il direttorio, non so per quale motivo i miei colleghi non siano venuti nonostante fossero invitati. Un po' mi dispiace perché questo di certo non smussa le polemiche, però sostanzialmente sicuramente è stato un momento di condivisione, di unione e secondo me era giusto e corretto che venissero anche loro del direttorio, anche perché si pretende tanto da loro e adesso gli si chiede molto. È un carico anche per loro, questo è sicuramente un lavoro in più, un incarico in più. Tutti secondo stanchissimi nel Movimento 5 Stelle, onorevole Mucci. No, vabbè, intendo dire che chiaramente oltre a fare i deputati, essendo adesso stati eletti in questo direttorio, avranno responsabilità in più, ma questo è nell'ordine delle cose e questo non sarà di certo per loro un ballo di gala, esatto. Quindi è normale che magari non sono venuti appunto perché adesso ci sono le feste, non so, hanno preferito così. Hanno preferito riposarsi. Adesso ci sono le feste, ma ci sono altre battaglie ancora da fare in Parlamento. Tutte queste polemiche hanno forse messo un po' in secondo piano i contenuti? Guardi, forse probabilmente la scorsa settimana le cose che sono successe probabilmente potevano essere rinviate, nel senso che effettivamente c'era la stabilità, c'era il Jobs Act e noi eravamo veramente totalmente immersi nel lavoro, quindi probabilmente è stato un momento sbagliato per tutto ciò che è accaduto. Però detto questo, il problema principale del Movimento 5 Stelle a mio avviso è proprio quello di far passare i contenuti, per cui noi dobbiamo prima di tutto cercare di lasciare alle spalle le polemiche e dedicarci al lavoro, altrimenti quello che passa saranno sempre il dietro i venterne e non un tentativo invece di essere costruttivi di un gruppo parlamentare che si sforza e soprattutto di cittadini sul territorio che si sforzano. Quindi le proposte ci sono ma devono emergere, quindi effettivamente il momento non era probabilmente il più corretto possibile per fare tutta questa rivoluzione. Diciamo che gli ultimi esiti elettorali dalle urne non sono stati così lusinghieri. E allora ha ragione Pizzarotti quando dice che comunque i problemi ci sono? Secondo me gli ultimi esiti elettorali andrebbero analizzati per bene, fermandoci un secondo, cercando di capire dove abbiamo sbagliato. Questo sicuramente. Dopodiché io rinnovo il fatto che il direttorio è uno strumento in più e se i deputati, i parlamentari, i cittadini hanno delle esigenze e vogliono dare un messaggio, sicuramente è più immediato il percorso con queste 5 persone. Certo è che effettivamente a qualcuno non è andato tanto giù sia il momento in cui è stato fatto questo passaggio che magari il metodo, però diciamo che un'analisi rispetto al risultato elettorale va fatta e questo è indubbio che insomma non sia stato va fatta in direzione Grillo o in direzione Pizzarotti, anche se lei sostiene lei che tenta di essere divisiva, ma sono la stessa cosa. Quindi sono la stessa cosa. Esattamente. Ma diciamo, c'è chi stamattina ha commentato, mancava solo che Pizzarotti dicesse che fai micacci, se non fosse appunto come scrivevano oggi sulla stampa che porta un po' male, però mancava solo quello. Lei che è stata lì non ha avuto questa impressione? Ma assolutamente no. Proprio non capisco da per che motivo. Guardi, io ho visto commentare tanta gente che secondo me non ha neanche seguito l'evento e questo dispiace, perché l'evento è stato assolutamente costruttivo, hanno parlato tanti sindaci, c'è stato tanto confronto, c'è stato anche un momento in cui hanno parlato le persone e hanno espresso i propri dubbi, ma non vedo proprio Pizzarotti, non ha detto niente che possa dare adito a un pensiero di questo tipo, quindi assolutamente questo lo rimbalza al mittente. L'unica cosa, cioè magari in indirizzo generale che può aver detto è stata di rivedere le espulsioni, perché comunque lui come stile è contrario alle espulsioni. Però se questo deve valere, se un ragionamento di questo tipo, che è personale, che è singolo, deve valere un che fai mi cacci, siamo veramente messi allora, male. Domani alla Camera tutti insieme e si riparte, questo dirà ai suoi colleghi. Esatto, questo ha detto sì, questo ha detto ieri Pizzarotti, questo hanno detto ieri tanti colleghi, questo è nel pensiero di tutti, insomma. E magari un grillo che si riposa. Vabbè, l'ultima battuta me la conceda. Grazie intanto per essere stata con noi. Mara Mucci, deputata del Movimento 5 Stelle. Buona giornata. Buona giornata, buona giornata. E buon riposo, allora. Anche a tutti voi, oggi 8 dicembre, 8.56, 30 secondi, Peter Bescapè non lascia scampo. È ora di chiudere, c'è GR24. Ancora una buona giornata intanto. Da Anna Migliorati.